假期，现在出发吧。 爸爸，开车要系安全带哦。 儿子，开车要系上安全带哦。 老公，开车要系上安全带哦。 遵命。 安全带一如家人的拥抱，是牵绊，是约束，更是温暖。 北京人民广播电台提醒您，开车系好安全带，安全出游由家人的第一个拥抱开始。 北京人民广播电台古典音乐有限频道，有限调频98.6兆赫，欢迎收听。送生命，舞动青春，歌舞剧场，人生与梦想的舞台。北京音乐广播古典音乐有限频道，每天10点22点播出。 Mamma soltanto felice perché ritorno da te。 欢迎收听歌舞剧场。我是你的朋友古月，在今天的节目中，请欣赏安德烈·博切利演唱的威尔第的歌剧咏叹调。安德烈·博切利是意大利著名的跨界男高音歌唱家，下面我们将要听到的是他所演唱的威尔第的15首歌剧咏叹调，风格多样，难度极大，具有抒情性和戏剧性。博切利的演唱把不同人物的内心情感刻画得栩栩如生，下面请欣赏他的演唱，由祖宾梅塔指挥以色列爱乐乐团伴奏。 Figlio, prima d'amarti, non può frenarmi il tuo martir. Madre infelice, corro a salvarti, a te almeno, corro a morir, a te almeno, corro a morir, a te almeno. ben mio con l'essere io tuo, tu mia consorte. Avrò io l'alma in tre. Ma pur se nella pagina dei miei destini è scritto io resti fra le vittime dal ferro stil trafitto io resti fra le Rostir trafitto fra quegli estremi aneliti a te il pensier verrà verrà e solo il ciel precede estremi aneliti la morte a me parrà parrà e solo i tuoi precederti la morte a me parrà la precederti la morte a me parrà la morte a me qual piuma al vento muta d'accento e di pensiero sempre un amabile leggiadro viso in pianto e riso è menzognero la donna è mobile qual piuma al vento muta d'accento e di pensiero e di pensier e di pensier è sempre misero chi a lei s'affida chi le confida mal cauto il core ormai non sentesi felice appieno chi su quel seno non liva amore la donna è mobile qual piuma al vento muta d'accento e di pensier e di pensier

possente amor mi chiama a volare io deggio a lei il certo mio darei per consolar quel cor il certo mio darei per consolar quel cor ma sappia il fin chi l'ama conosca il fin chi sono apprenda che anco entrano negli schiavi amor ma apprenda anco entrano anco entrano negli schiavi ma negli schiavi amor quel pensiero la gita come canto d'umor come canto come canto possente amor mi chiama volare io deggio a lei il certo mio darei per consolar quel cor certo mio darei per consolar quel cor ma sappia il fin chi l'ama conosca il fin chi sono apprenda anche entrano degli schiavi amor ma apprenda anche entrano anche entrano degli schiavi sogno si avverasse un esercito di prodi da me guidato e la vittoria e il plauso di Menfi tutta e a te mia dolce Aida tornar di là ricinto dirti per te ho pugnato per te ho vinto celeste pensiero vicino al sol. Per me lasciò dovizie, amori e le pompose feste, o vagli omaggi avvezza vede a schiavo ciascun di sua bellezza. Ed or contenta in questi ameni luoghi tutto scorda per me. Qui presso a lei io rinascer mi sento, e dal soffio d'amor rigenerato scordo de gaudi suoi tutto il passato. De miei bollenti spiriti il giovanil ardore e la tempra col placido sorriso dell'amor, dell'amor. Dal dì che disse vivere io voglio a te fedele, e l'universo in me more. Io vivo quasi, io vivo quasi in ciel. Dal di che disse vivere, io voglio a te fedele. Ah sì, te l'universo in me more. Io vivo quasi, io vivo quasi in ciel. Io vivo in ciel dell'universo. perso in memore. Io vivo quasi in cielo, sì, io vivo quasi in cielo. Io vivo quasi in cielo. Oh mio rimorso infamia, io vissi in tale errore, ma il turpe sonno frangere il ver mi valerò. Per poco in seno acquetati, o grido, grido dell'onore, avrai sicuro vindice questo tal vero. O mio sor, o infamia, o se questo tanavero, si lavero. O mio sor, o infamia, o se questo tanavero. Questo un talavero. O mio rimorso infamia, io vissi in tale errore, ma il turpe sonno frangere il vermi valerò. Per poco in seno acquedati, o grido, grido nell'onore, ma avrai sicuro vindice questo un tallavero. O mio sor, o infamia, o se questo un tallavero, si lavero. O mio rossor, o infamia, o se questo un passi questo tallavero. Questo un tallavero. Mortal non va, dove mortal mortal non va, come mortal, mortal, mortal non va. Merce diletti amici, a tanto amor merce. Udite or tutti del mio cor gli affanni, e se voi negherete il vostro aiuto, forse per sempre, Ernani fia perduto. Passito fiore, aragonese vergine, scendea mi voce al cuore. Fu quello il primo palpito, il primo palpito d'amore che mi bea. Il vecchio Silva stendere osa su lei la mano, domani tra l'altalamo confida l'inumana. Rapisca, si arrabbia, ma inseguirci sta la vita. Bel giuro, ti seguire. Madonna, che c'è la bocca, tu ti avrai compagno d'ora. Dagli serve il dubbio, il padre, che ti ascolto ogni buca. E per farmi la tua bella, e banditi fra la stella, sarà degna tua valore, sarà degna tua valore. Consolator.

Tradia, ami tradia. amico, t'amo, dicea, mi tradia, mi tradia. Vita inferno all'infelice, in vano morte desio. Si rimembranza sarò infelice eternamente. È scritto. Della nata al suo terra il padre volle spezzar l'estraneo giogo e con l'unirsi all'ultima degli incas la corona cingere confidò. Fu vana impresa, in un carcere nacqui, m'educava il deserto, sol vivo perché ignota è mia regale stirpe, i miei parenti sognarono un trono. E sto la scure o quando fine avran le mie sventure. Oh. 感受音乐与歌声的交响，聆听舞蹈与旋律的对话，请进北京音乐广播古典音乐频道有线调频98.6兆赫歌舞剧场，每天10点、22点播出。 欢迎继续收听歌舞剧场，在接下来的节目中，请欣赏安德烈·博切利演唱的意大利民歌。 Questa mia canzone, inno dell'amore, te la canto adesso con il mio dolore, così forte, così grande.Fu andarsene poi via. Questa melodia, inno dell'amoreLa canto e sento tutto il mio dolore, così forte, così grande che mi trafigge il cuore. All'infino il mattino tra i canti un gran molino. Lì è nato il mio destino, amaro senza te. azzurra luna, foglie il vento ci porta, siamo ali verso il blu, stringimi e lasciati andare, il mio be alone.

perderti così come un attimo mentre tutto va oltre i limiti della mia fantasia tu che eri mia voli e brividi grandi sogni che forse realizzai a che servono se tu non sei qui qui con me anche se ho sbagliato prenderti la mano e darti l'anima. Resta qui, resta qui, tu che sei mia. Un attimo e noi valeremo là dove tutto è paradiso se noi saremo là soli ma insieme. Io ritornerò. Rallentare il tempo che non passerà. Resta qui, resta qui, tu che sei mia. Un attimo e noi voleremo là. Ogni giorno che noi saremo insieme. Il freddo inverno non ti porta. prigioniero del tempo, chiuso nella memoria. Non ho mai più sentito il profumo infinito di una rosa al mattino. Questa voce che ho dentro parla solo di noi, come un dolce tormento. Questo sogno lontano non mi fa più dormire. Non è un canto di addio, ma una musica dolce, un'orchestra che io suono solo per te. Oceani immensi, ritroverò corpi celesti e terre d'Africa, un altro sole ci riscalderà. Perduta la gente usasse il cuore per decidere con semplicità cosa è giusto e cosa no, ci sarebbe tra noi molta più felicità. Se la gente usasse il cuore, si aprirebbe un orizzonte migliore. Troppa indifferenza c'è, prova a vincerla tu, che puoi farcela se vuoi. E cerca di essere tu il primo che ci sta a rinunciare un po' per dare a chi non ha. Quello che tu dai

qui nella tranquillità. I giorni si ripetono, però mi manchi tu. Cose ti ricordano, anche i silenzi ti raccontano, e mi manchi tu. Dopo di te ricominciare è difficile. Che solo tu che nei tuoi sogni ormai ogni notte scivolo. Ascolti ed io so già che vuoi da me un altro sogno che non hai osato credere mai. Un sogno che al mattino non racconterai, sperando solo un po' che non sia vero. Letto, sono l'angelo, sei bella ancora un po' assonnata, dimmelo, c'è posto anche per me, accanto a te, per tutto il giorno io potrei darti l'anima, vuoi, sarò per te l'amico più sincero. E quindi